24 mattino di Alessandro Milan. Alle 7.22 minuti, buongiorno cari ascoltatori, eccoci qua, 24 mattino, siamo in diretta. Oggi fino alle 10 avremo con noi anche Oscar Giannino, dalle 8.20 e staremo insieme fino alle 10, come facciamo ogni tanto, per parlare ovviamente del dopo elezioni amministrative, il primo turno. Avremo tanti ospiti e ovviamente tutti i politici, e elezioni che troviamo ovunque, sui giornali. Andiamo subito a sfogliarle. 24 mattino. Allora, sono le 8 e 21 minuti, cari ascoltatori. Intanto, alcune comunicazioni. Oggi andremo in diretta fino alle 10. Ci sarà con noi anche Oscar Giannino, ma insomma c'è un problema di Fiumicino con la nebbia, per cui sta atterrando, va a Roma, sarà con noi tra poco al telefono. E di cosa parleremo? Parleremo ovviamente delle amministrative, del primo turno delle amministrative. 800 24 00 24, questo è il numero se volete intervenire in diretta fino alle 10 per stare con noi. Gli sms al 349 238 6666. Che cosa si può dire in estrema sintesi di queste amministrative? Il crollo dei partiti e soprattutto il crollo del Popolo della Libertà, il crollo della Lega tiene il Partito Democratico, anche se in situazioni come per esempio a Palermo c'è stato il trionfo di Luca Orlando, e c'è stato il tanto annunciato e confermato dai voti, forse non nei numeri, atteso così in maniera massiccia, trionfo del Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo. Allora, da qui vogliamo partire. Io saluto Davide Bono. Buongiorno Davide Bono e ben ritrovato. Buongiorno a tutti. Davide Bono è un consigliere regionale del Movimento 5 Stelle nella regione Piemonte. Allora Bono, intanto ora vi dovrete confrontare con questa mole di voti che sono arrivati. E la prima domanda è scontata: vi aspettavate un trionfo del genere? Anche se certo i comizi di Beppe Grillo erano molto affollati, certo si parlava di crollo dei partiti, di affluenza e di possibili voti per il Movimento 5 Stelle, ma vi aspettavate questa valanga di consensi? Beh, ovviamente è sempre difficile fare previsioni. Diciamo che erano abbastanza attese, appunto, vedendo le piazze e vedendo anche il malcontento verso i partiti, nel senso più deteriore del termine, nel senso della loro gestione clientelare della politica e dei voti. Quindi ad oggi abbiamo il primo sindaco a 5 Stelle in un comune in provincia di Vicenza, e in 5 comuni siamo al ballottaggio. Sì. Tra cui ovviamente Parma, che è risultato forse... Beh, incredibile, Pizzarotti gli ha ottenuto il 20%, però a Parma era forse si votava anche sulle macerie di una vecchia gestione che è finita anche con inchieste, con il sindaco che è dovuto andarsene, il sindaco del Popolo della Libertà, e quindi forse lì era una situazione di macerie politiche. Ecco, questo infatti mi porta alla seconda considerazione, che è quella che un po' si legge sui giornali. Si dice: certo, i voti vanno al Movimento 5 Stelle perché è l'antipolitica contro di fronte al crollo dei partiti, al calo di consensi dei partiti. Voi come contestate a questa obiezione di essere l'antipolitica? Ma noi non contestiamo neanche, perché su espressioni del genere non tendiamo a porci sullo stesso piano. Quindi io penso che siano i cittadini che rispondono nelle urne, che è la risposta migliore, e che votano se stessi fondamentalmente, perché comunque hanno voglia di realmente di riprendersi in mano un po' la gestione, partendo dai comuni, che è proprio la propria casa, il posto più vicino alle problematiche della vita di tutti i giorni, e quindi si costituiscono in liste civiche che si presentano, alcune sotto il simbolo del Movimento 5 Stelle, e provano quindi a dare uno scossone alla loro città, che purtroppo da Parma, ma io in Piemonte citerei Alessandria, che è praticamente in dissesto finanziario, o anche la stessa Torino, che insomma è quasi lì vicina, che provano quindi a dare un segnale forte a tutto il paese, insomma, che la politica si può fare senza strutture partitiche, quindi tutta la burocrazia, tutte le gerarchie, e soprattutto ribadiamolo, senza soldi, perché tutte queste liste sono state fatte praticamente anche nelle grandi città, perché ovviamente non parliamo solo di piccoli comuni, ma da Parma ad Alessandria, a Genova, a Palermo, sì, con poche centinaia di euro. Senta, io sulla questione senza soldi posso seguire gli italiani, guardi, su questa storia dei rimborsi elettorali sono assolutamente abbastanza arrabbiati, ecco, sul fatto che i partiti non riescono a tagliarsi i rimborsi elettorali. Sulla questione senza partiti la seguo un po' meno. Davvero la politica si può fare senza partiti o senza i partiti tradizionali? È questa la strada nuova? Questa è sicuramente una bella domanda, questo è quello che stiamo cercando di proporre, penso unici al momento anche in Europa, nel senso che noi pensiamo che al momento appunto le strutture partitiche siano un freno all'espressione della democrazia, ma lo vediamo tutti i giorni qua in Piemonte, per farle un esempio, anche a chi ci ascolta, ad esempio abbiamo una particolarità che da 25 anni stanno negando ai cittadini l'indizione di un referendum perché per vari motivi la politica partitica si ritiene superiore alla sovranità popolare che è sancita dalla nostra Costituzione, per farle un esempio, ma potremmo fare anche l'esempio del referendum nazionale dell'acqua. E, mi sembra che i partiti oramai si siano un po' sostituiti a quelle che sono le istituzioni previste anche dalla nostra Costituzione, a quelle perché veramente sono la volontà e la sovranità dei cittadini. Senta, quindi, purtroppo sono una degenerazione, nel senso magari erano nati con una buona finalità, ma mi sembra che non si sia compiuto nell'articolo 49. Sì. Cioè lei ci sta dicendo che sta nascendo, come dice Beppe Grillo, la Terza Repubblica, la morte dei partiti, sta facendo il funerale ai partiti, ne sta parlando, come dire, sono degenerati nel nulla, non è una situazione in realtà temporanea quella in cui adesso c'è una certa dose di malcontento verso la classe politica, ma che poi tra un anno, quando si voterà alle politiche nazionali, potranno tornare invece quegli stessi voti politici. Ma difficile, io penso che si sia innescato un meccanismo, quindi io penso che il prossimo anno sarà ancora peggio per i partiti e ancora meglio per il Movimento 5 Stelle e per chiunque vorrà provare a fare delle liste civiche appunto senza un'organizzazione partitica. È un percorso veramente iniziato e probabilmente in effetti sì, ci sono, è la Terza Repubblica, perché ci sono molte analogie con il biennio 92-94, dalle indagini che stanno falcidiando mezze giunte, mezze consigli da regionali o comunali, dalla Lombardia in giù, alla voglia proprio di scossa morale del paese. Sì. Io spero che non si limiti veramente a 4-5 arresti, ma cambi proprio il modo di fare la politica, che i cittadini non diano più il proprio voto in cambio di un pezzo di pane. Allora facciamo così, Davide Bono, adesso ci fermiamo qualche minuto per la pubblicità del meteo, poi ci raggiungerà anche un esponente della Lega, Tilio Fontana, che è il sindaco di Varese. La Lega è uno di quei partiti che ha beccato un salasso mica male, tra l'altro a Sarego, il comune dove il primo sindaco del Movimento 5 Stelle è stato eletto, e proprio Sarego è il paese dove ha sede il Parlamento della Padania. Vedete come cambiano le cose in pochi mesi. Con noi rimarrà Davide Bono, consigliere regionale del Piemonte per il Movimento 5 Stelle, ovviamente anche con le critiche. C'è chi per esempio dice, Davide Bono, glielo anticipo, il Movimento 5 Stelle è un partito come gli altri, non ha democrazia interna e ha la proprietà privata del simbolo, e chi vuole invece sapere anche la questione dei programmi, perché ovviamente tanti hanno seguito i comizi molto urlanti, molto affabulati di Beppe Grillo, ma in realtà il Movimento 5 Stelle ha anche dei programmi concreti sulle cose che fate, e qualcosa magari cercheremo di capire tra poco dopo la pubblicità del meteo. 800 24 00 24, i microfoni sono aperti ovviamente anche agli ascoltatori. Sono le 8:36 minuti, 800 24 00 24, se volete intervenire in diretta saremo in diretta fino alle 10 per parlare delle amministrative. C'è con noi Davide Bono, consigliere del Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo, ci ha raggiunto Attilio Fontana, che saluto, il sindaco di Varese, leghista, buongiorno sindaco. Buongiorno Fontana. A lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ben ritrovato. E c'è con noi Oscar Giannino, eccolo Oscar, ci sei? Ci sono, maledizione per un ritardo di un'ora di un aereo, mi sa che ci tocca stare in studio e io che sono qua a presidio. Parlo di qua perché... c'è immagine migliore di nebbia a Roma oggi, sì, per capire il clima. Perché no, deve essere la paura dei palazzi che sono entrati nel caos, capisci? Una caligine che finalmente, da quale spero esca, perché in realtà che si stupiscano di questo risultato, la mia prima opinione è che mi fa morire dalle risate, questo risultato non può stupire nessuno, è frutto di 20 anni di errore, la Seconda Repubblica riguarda la destra travolta finalmente, la sinistra dirà che vince con Hollande, ma non sono d'accordo, i risultati che si vedono dei candidati di sinistra, che sono quelli regolarmente non del PD nelle primarie e del Movimento 5 Stelle, sono un altro segno rispetto agli apparati dei partiti, però vedo che i commenti invece dei signori dei partiti sono non darsene per inteso, sì. Stupirsi di Grillo, Ferrara che titola poi due volte sul fallimento di Grillini è veramente come sempre paradossale. Sì, anche la Russa ha detto mi aspettavo di più dal Movimento 5 Stelle. Vabbè, moriamo dalle risate. No, vabbè, comunque i partiti, qua Davide Bono ci ha detto, caro Oscar, che è iniziata la Terza Repubblica, secondo lui vede analogie col 92 e prevede che l'anno prossimo prenderanno ancora meno voti i partiti che si stanno liquefando. Beppe Grillo ha detto si stanno liquefando in una diarrea politica, poi c'è l'aspetto più, se volete, lessicalmente più presentabile, che sono invece tutti gli amministratori del Movimento 5 Stelle. Davide Bono dice si stanno liquefando, è così Oscar, è davvero la Terza Repubblica? No, io sono d'accordo sul fatto che la lunga e troppo lungo declinante Seconda Repubblica che ci regala una crisi peggiore adesso nel 2008-2009 economica, intendo per via della spesa e delle tasse, è finita, è davvero finita, perché si capisce che il centrodestra, che è quello che con la discesa in campo di Berlusconi l'ha ispirata e l'ha incarnata e l'ha innervata come sistema politico in termini magnetici a favore o contro, non c'è più, non esiste più. Il PDL prima capisce di quel che resta del PDL, che chi è del centrodestra deve dire che è finita quell'epoca e non bisogna più avere niente a che fare con quell'epoca, forse ha qualche chance di provvidenza, altrimenti evapora appunto e viene travolto. La Lega se n'è andata per i fatti suoi e travolta per i fatti suoi, tranne dove a propria volta ha detto basta Bossi. Quindi il centrodestra su cui si è fatto la Seconda Repubblica non c'è più, rimane il fatto che poi gli italiani sono incazzati dovunque e hanno ragione per gli effetti economici della Seconda Repubblica, certo. E questo è l'aspetto secondo me che dovrebbe impedire alla sinistra vecchia, cioè a quel PD, di pensare che stanno vincendo alla Hollande. Hollande è un leader socialista, questo è un risultato invece di sconfessione di tutte le scelte che ha fatto la leadership PD in termini di alleanze, ma soprattutto in termini di uomini, in termini di come si fa politica. Basta confrontare i toni delle interviste anche oggi di Rossi, Bindi, sì, sì. No? Che dà voti a tutti eccetera eccetera, con lo stile di chi dal basso rifà la politica come il Movimento 5 Stelle. Allora Oscar, visto che il tuo canale audio è sempre aperto, puoi fare domande anche ai nostri ospiti, Davide Bono come detto e Attilio Fontana. Attilio Fontana, Lega, con Davide Bono un po' abbiamo già parlato, tra poco ritorneremo. Fontana, qui l'immagine della Lega è dovete vedere il bicchiere mezzo pieno, e cioè Tosi con le sue liste civiche ha trionfato e si è riconfermato a Verona, oppure dobbiamo vedere il bicchiere mezzo vuoto che neppure a Cassano Magnago, paese dove è nato Umberto Bossi, la Lega ha vinto, è stata esclusa dal ballottaggio. Come la vede lei, Fontana? Credo che si debba cercare, visto che sono della Lega, di vedere bicchiere mezzo pieno, nel senso che comunque si è lanciato un messaggio abbastanza chiaro, è partito un nuovo tipo di Lega, un nuovo tipo di esperimento politico, perché quello di Tosi è anche un nuovo modo di interpretare questa politica, che deve essere non più schematizzata nei recinti dei partiti così come erano intesi una volta, ma più sensibile, più attenta alle esigenze territoriali, alle esigenze che nascono direttamente dalla società civile. Avete perso anche Sarego, dove c'è la sede del Parlamento Padano, è andato al primo sindaco del Movimento 5 Stelle, qui la sta ascoltando anche Davide Bono. Sì, ma mica le sto dicendo che abbiamo vinto. Questo ci mancherebbe. Le sto dicendo che abbiamo perso, le sto dicendo però qual è l'unico aspetto positivo nel quale io personalmente credo da tempo e credo che possa essere il mezzo per ripartire, perché vede, secondo me la cosa giusta è che in queste elezioni è finito un certo modo di fare politica, secondo il mio modo di vedere le cose. È finito, ripeto, lo schematismo dei partiti, la contrapposizione fine a se stessa. Lo sto dicendo da tanto tempo, è inutile che ci troviamo a discutere se abbiamo perso per colpa della Lega, per colpa del PDL, per colpa del centro-sinistra. Sono cose superate ormai, non possiamo più fare la fine dei capponi di Don Abbondio, di Renzo, scusi. Sì. È finita la faccenda, se continuiamo a cercare di strapparci due preferenze facendo la battuta a defetto o dicendo la cattiveria che più attrae l'attenzione, non abbiamo capito niente, perché il mondo sta andando in un'altra direzione. Quindi o lo capiamo o noi rimarremo a litigare tra di noi e il mondo andrà in un'altra direzione. Quindi insomma Verona come punto di ripartenza della Lega, più vicina, tornare a quella vicinanza territoriale, no? Di quelli che sono gli interessi della gente. Assolutamente, assolutamente, che è l'unica cosa che paga, perché è l'unica cosa che porta voti. Ma è l'unica cosa in cui la politica può dimostrare di essere utile, cioè voglio dire, noi dobbiamo dare delle risposte concrete, non possiamo continuare a fare i grandi proclami, le grandi scelte di bandiera, perché sì, noi siamo più democratici, voi siete più razzisti, sono tutte cose che la gente si è stufata di sentire, perché questi discorsi hanno contribuito a non risolvere i problemi veri. Allora, a questo proposito, Davide Bono, provi a convincere Oscar Giannino, che l'ascolta, su qual è il programma del Movimento 5 Stelle, perché spesso si è detto, abbiamo sentito i proclami di Beppe Grillo, i comizi, molte, ma qual è il programma, cosa volete voi? Per esempio, cosa dovrebbe fare il sindaco di Sarego, che adesso controlla il primo comune? Beh, sicuramente questa è la domanda giusta, nel senso che noi abbiamo un programma, come spesso diciamo, che è pubblicato anche sul sito del Movimento e poi viene calato, c'è un'ossatura, quindi una serie di linee guida, e poi viene calato dai cittadini che si presentano nelle liste del Movimento 5 Stelle sul territorio. Noi diciamo cose abbastanza semplici, non cose stratosferiche fuori dal normale, diciamo di applicare una sana amministrazione nei comuni, quindi innanzitutto da gestire bene quelli che sono i soldi che i contribuenti versano nel comune, quindi adesso ci sarà il grande discorso dell'IMU che bisogna ancora capire come affrontare e come gestire, e soprattutto di farlo insieme ai cittadini. Quindi noi una delle cose che diciamo per primo è quello di fare realizzare un bilancio partecipativo, non tanto nel senso di appunto come fanno da Porto Alegre in avanti, quindi di co-gestire insieme ai cittadini una parte, ma di rendere trasparenti tutte le scelte, quindi di far sì che i cittadini sappiano dove vanno i loro soldi, quindi sia per la parte che restano nel comune, sia per la parte. Ma questo che non dovrebbe essere la politica normale, non so, Oscar Giannino, non dovrebbe essere la politica normale rendere conto dei soldi dei cittadini? Questo lo dovrebbe fare qualsiasi tipo di amministratore. Infatti, cioè ce lo devono dire quelli del Movimento 5 Stelle, Oscar? Ma ce lo devono dire, sì, in quale paese vivi, se mi fai questa domanda? No, ma in Italia, è chiaro che è una domanda retorica, se vuoi, però i partiti non hanno vita democratica da decenni, non ce l'hanno, non esiste, ma non è vero che in questo è stato Berlusconi ad annullarla, non ce l'avevano neanche prima, perché io quando ero giovane in un partito del pentapartito ho fatto il portavoce nazionale, poi ho sbattuto la porta dopo anni, però per dire, quindi i partiti la vita democratica non ce l'hanno per definizione, ed è inutile illudersi, non ce la possono avere quasi mai, però la differenza è che questa nuova maniera che sboccia dal basso, che non convince, che naturalmente l'aspetto comico di Grillo rende esasperantemente paradossale, perché poi c'è questo aspetto ovviamente che fa parte di un carattere di cui non avremo mai a capo, che è quello di Beppe Grillo come uomo, non come politico, che non è quello della gente che invece si candida dal basso. Però quella forma politica del Movimento 5 Stelle è una forma politica che in realtà ricomincia dal basso. Ecco, questa è la grande lezione che almeno i partiti dovrebbero tentare. Questo sì, il ricominciare dal basso, cioè la partecipazione però popolare. Sono tutti dall'alto. Cioè, no, questo è vero. Berlusconi come D'Alema, la Bindi come Bossi, hanno la pretesa, capisci, di fare top down, non bottom up, come si dice. Allora, top down, c'è il leader che è illuminato del fatto di non vivere tra la gente normale, perché nessuno di loro ha una vita normale, e del fatto di avere tutto pagato e di fare per decenni vita di parassita politico, perché questa è l'amara realtà, crede di poter spiegare alle formiche, che poi devono avere a che fare con le pretese dello Stato, col fatto che non c'è lavoro, con le imprese che chiudono, con gli imprenditori che si suicidano, anche ieri altri due, uno salvato, per essere chiari. Ecco, la differenza è che il cortocircuito viene dal basso. Io dico viva, cioè non mi stupisco, ma dico viva. Il mio non è un vivo al Movimento 5 Stelle, credo. Dico per fortuna che dal basso, perché sì, solo dal basso che si possa, certo, per fortuna c'è questa scossa. Sentiamo le informazioni sul traffico e poi riprendiamo. Allora, Beppe Grillo ha detto i partiti si stanno liquefacendo, non liquefando come ho detto prima. Ma d'altronde il ministro Fornero ha detto che gli italiani sono ignoranti, gli studenti non sanno l'italiano, e quindi io non so l'italiano. Sono stato subito additato dal ministro Fornero col ditino puntato e ho sbagliato. Faccio ammenda. Liquefacendo. Allora, Lorenzo dalla provincia di Chieti che ci ha chiamato, leggo essere un sindaco. Sindaco Lorenzo, buongiorno. Buongiorno a tutti. Sì, sono sindaco di un comune in provincia di Chieti che si chiama Canossa Sannita. Perfetto. Abitanti, numero? Pochissimi, 1500. Vabbè, circa. Pochissimi. Vorremmo aumentarli, quindi invito. Come fate? Un po'. Inviti i suoi concittadini a darsi da fare, no? Oppure, certamente, ma invitiamo anche chi abita fuori a venire qui a Canossa. A no? Canossa Sannita, lei, no, so che non si votava nel suo comune, che ci voleva dire? Ma niente, io purtroppo devo dire che il mio intervento è stato un pochino anticipato dal signor Oscar Giannino. Vabbè, lo dica lo stesso. Tra l'altro saluto, lo seguo sempre e gli ricordo di quell'invito che gli avevo fatto tempo fa, circa un mese fa, per portarlo qui nel nostro paese. Niente, l'intervento comunque è il seguente. Cioè, spero che dopo il risultato elettorale di queste ore i partiti riescano a capire che attualmente è arrivato il momento di reagire, di fare qualcosa, cioè di cambiare strada, di cambiare rotta completamente. Questi devono azzerare tutto, sia sì, la destra. Io lo dico onestamente, sono un sindaco ma ho una tessera di partito pure io, se vuole le dico pure quale, il PDL. Vabbè, ce lo dica. Ma capisco proprio tranquillamente che è arrivato il momento di azzerare tutto. Sì a destra, sì a sinistra. Ricominciare da capo. Va bene, ma è interessante questo punto. Davide Bono, sulla mancata democrazia all'interno del Movimento 5 Stelle, sai che arrivano molti messaggi, dicono Beppe Grillo espelle in 448 chi non la pensa come lui, manca una struttura veramente democratica. C'è Beppe Grillo e poi ci sono i movimenti, i meetup, cioè non c'è una struttura partitica. Voi cosa rispondete? Effettivamente non c'è una struttura come i partiti, e questo per voi è un vanto, ma forse è un po' di carenza di democrazia, questo c'è all'interno del movimento o no? Ma no, ma io direi assolutamente no. Per fortuna che non c'è la struttura dei partiti, per fortuna che non ci sono le tessere che producono poi le correnti contrapposte, le faide tra i maggiorenti di partito. Noi le vediamo tutti i giorni, anche qui in Piemonte, la nostra esperienza, sono tutti divisi in correnti. Noi questo nel Movimento 5 Stelle non c'è, quindi noi ovviamente non diciamo che siamo la perfezione, attenzione, nessuno di noi ha questa mania di grandezza. Diciamo che il modello partitico è fallito e lo sta dimostrando con tutta la sua forza in Italia in questi ultimi anni, e noi proponiamo un'altra forma, quindi una forma in cui comunque ci sono delle assemblee di cittadini che fanno la politica dal basso. Questo. Sì, magari dal basso non mi piace tantissimo, perché secondo me è l'alto, nel senso che... No, ma non vuol dire che l'alto è meglio, il basso è peggio. No, il basso come rappresentanza dal territorio. No, e si propongono quindi liberamente, nel senso che comunque la scelta dei candidati, del candidato sindaco, viene fatto da tutti quelli che partecipano, e così come la stesura del programma, che viene fatto aperto su internet con delle forme tipo appunto Wikipedia, oppure oppure anche in riunioni, quindi comunque tutti possono contribuire sia prima che durante che dopo. Quindi a me sembra il massimo della democrazia ad oggi realizzabile. Poi se un domani ci saranno strumenti migliori, ovviamente sì, vedremo. Intanto ad Attilio Fontana anche una domanda molto secca. Io le ho già chiesto settimana scorsa, a Fontana l'avevamo avuta ospite. Senta, ma non è la certificazione, anche il fatto che a Cassano Magnago la Lega ha perso, che la fase Umberto Bossi è finita? Io capisco che magari lei ha difficoltà a dare un giudizio così tranchant, ma questo è, cioè la Lega di Umberto Bossi non c'è più. Anche la questione Renzo Bossi, la laurea al Trota in Albania, insomma, è finita quella Lega o no? Ma diciamo che sicuramente stanno emergendo dei messaggi completamente diversi rispetto a un certo tipo di impostazione del movimento, a un certo tipo di organizzazione su anche una certa classe politica. Su questo mi sembra che sia abbastanza chiaro, anche perché se siamo arrivati a questi risultati, purtroppo lo dobbiamo molto anche a certe scelte sbagliate che sono state evidenziate da tutti i giornali in questi ultimi tempi. Comunque, dato che al di là di quello che diceva l'amico di 5 Stelle, anche noi abbiamo, e soprattutto noi abbiamo, una vita democratica. La vita democratica si svolgerà con i nostri congressi. In quella sede vedremo i militanti, la gente che fa parte della Lega, che strada vorrà intraprendere. Mi permette soltanto un'affermazione, certo, rispetto a quello che diceva Giannino. Io condivido. Ecco, condivido quasi tutto quello che lui dice. Non sono d'accordo su un passaggio: non è vero che tutto il mondo della politica italiana e soprattutto delle amministrazioni è così opaco. I bilanci dei comuni sono assolutamente trasparenti e io parlo della mia esperienza. I cittadini mi vengono a contestare anche se spendo 20.000 euro che non condividono, scelte che non sono da loro valutate positivamente. Quindi credo che bisogna fare una distinzione fra il i virtuosi e fra la politica nazionale e la politica quella territoriale. Comunale, Oscar, effettivamente ecco. I bilanci dei comuni sono accessibili, ma c'è davvero questa trasparenza che il sindaco, in questo caso Fontana, ti contesta? Come nei piccoli centri sì, nella media delle grandi città, lasciamo perdere le grandissime come Milano o Roma, assolutamente la gente non riesce a capire niente. E posso dire, nella mia esperienza, ne conosco a Iosa, moltissimi dei politici che le amministrano, al di là degli assessori al bilancio, non riescono a capirci niente, cioè non hanno un'idea neanche, voglio dire, faccio un esempio classico, in queste settimane la polemica sull'IMU, no? Con il governo che dice dei comuni che possono, secondo l'ordinamento vigente, fare in proprio la riscossione facendo una scelta alternativa rispetto a quella di Equitalia, ecco, il governo automaticamente dice che è un incitamento improprio e inaccettabile all'evasione fiscale, perché evidentemente nei membri stessi del governo non era chiaro che l'ordinamento prevede questa possibilità ordinamentale. Quindi ti faccio questo esempio concreto per farti capire che la vita pubblica amministrativa italiana al bassissimo livello, diciamo, se i cittadini si mettono capiscono, ma altrimenti no. Oscar, però fermati qua, tanto riprendiamo tra pochissimo perché continua il nostro speciale. Ringrazio Attilio Fontana e Davide Bono, ma noi continuiamo con Oscar Giannino tra poco.